Pupunia. Pupunia è morto. Ande, muore, ande. Si è gonfiato tutto quanto di muerto. Tutto morto, tutto nato, tutto via. Ho uscito il cane. Dove è Pompo? E beh, Luca, dove va? In compugna, eri. In compugna, eri. Zundo. Stavi all'ostello, stavi, eh? Sì, sì. Almeno ti sei divertito, oggi già c'era caldo. Ma non ce l'ha gonfiato, compugno. Ho capito. Ho detto, non ti ho gonfiato. No, non mi sono gonfiato ancora, è barrato. Ciao, ciao, buonasera, professor Cole, ciao. Ti rompo. Via. Andiamo, andiamo, ciao. Ospiti, anche. Sono nell'altra stazioncina, dai, che sto facendo qualcosa dentro. Sì, che signora radio, cocco. Signora è basso, però, dai, vabbè, non fa niente. Beh, no, questi di qua, a latte dolce. Latte dolce, sono 4 watt, lui. Sono 4 watt con serve SSB, 23 canali. Che... come si dice, interessante che la radio, no, il segnale lascia il tempo che trova. Qua è 5 a me. Quanto tanto è? Segnale 5. Vabbè, dai. Sono tu che sto facendo cose, dai, sono impegnato, ciao, sono con Rix. Ehi, ciao, ti ci sentiamo. Scusa, Rita, Non è bello il mare oggi. Andiamo, cazzo. Allora, vedi Sciura, va, poco fa c'era un po' di propagazione. Poco fa, un'oretta fa. E quel caldo che ha fatto oggi, ti credo. Mi piace, sta bene comunque. Si può uscire come si deve. Fresco non ce l'è, si sta bene, si sta bene. Adesso domani mi pare buio, domani dopo domani piove. E la salva, l'ho fatto in terra. Ah, quello sì, la fa in terra sì. Tu pensa che lunedì ha messo 31 gradi. Figurati. E su ne sta scendendo l'aria. Ho sentito a bombo, doveva essere in giro al mare senz'altro oggi. Di solito entrava la domenica. Cosa, non ho capito? L'ho sentito Antonio Bombo, l'ho detto, di solito la domenica entrava. Non ho capito, Pompo. Ho detto che non ha inteso Antonio Bombo. Sì, sarà al mare quello. E infatti quello che stavo pensando. Che è la gabba. Gabba, chi è che vuole entrare che arriva a Santiago 3? Chi è? E Mascio. Sistema tutto. E queste da voi sono uscite. Oh, sento questo. Non so cosa sia. C'è qualcuno che sta provando qualche malattia ma non riesce a regolarlo, evidentemente, non lo so. E chi ne so? Ma ne sto arrivando, sì, ma ne mi stai ascoltando, Pompo. 9:10. Ma anche tu stai arrivando 9:10, quella radio è buona, Perfetta. Che ragazza. Stati Uniti sono. Vuol dire che sono uniti, beati loro. Già arrivano bene, già. Ogni tanto uno arriva a 9, l'altro arriva a 5. Andiamo, andiamo, che? Allora, andiamo, beh, sì. Chicken, but I know now, chicken went up. I used to get chicken for $6.99. $99.99. How much you talking about? In quei grattacieli dove abitano basta una manca, va lì. Basta e avanza, ragazzi. Ascolto più basso oggi. 9 a picchi di 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cucca. Cucco di cucco. Ma non c'è il segnale di ieri però. Sì, quasi 9 del segnale, è ben basso. Minimo ci avrai un watt come minimo. Sì, la radio è buona, adesso sei sceso di segnale. Da 9 sei sceso a 5 di colpo. Adesso più o meno è stabile, 9 con picchi a 8. E vabbè, prova a centrare un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prova un po', prova un po'. E cerca di sistemarlo piano piano, così almeno ce l'hai e lo utilizzi. Capito? E hai trovato male le bobine, meno che non trovi uno per pezzi, stacca le bobine a una e gliele cambi. Già ho capito, sono quelle marroni, c'è dunque ferrite intorno e le marrone al centro. E il cenerastico di colore bianco. E ho capito. Già va bene, dovresti, piano piano tu lo controlli, vedrai. Gli altri sistemi non è che sia quella difficoltà, già ne hai i pezzi, non è che non ne hai. Lo so che ti piace la ricezione. Eia. Va bene, dove si riceve bene, non penso che ricevi male. Vabbè, la ricezione controlla un po'. Se mi ricevi bene, non so, potrebbe essere anche lo switch regolato male, cosa hai capito? L'importante è che il radio e il segnale sia buono io. Poi non dare retta alla media frequenza, non toccarla. Insomma, se tocca la media frequenza sei buttito. Quindi magari roba di Smith, regolatelo. È meglio così, basta che regoli il trimmer giusto dello smitter. È logico che mi puoi mettere a fondo scala la Santiago 9, Santiago 5. Proprio la trasmissione non è quello il problema, la trasmissione già lo sai, devi usare uno di quelli cacciaviti induttivi e regoli quella bobina piano piano, regola. Molla, capito? Le bobine fatte a molla che ci sono e ti mettono il watt da un finale all'altro. Sì, vabbè, se c'è gli strumenti puoi farlo, ci vuole gli strumenti adatti, frequenzimetro, oscilloscopio, misuratore di cavo, di tutto che vuole. Vabbè, quelle vecchie le metti nuove se ce ne è uguale. L'apparecchio torna nuovo, basta avere due o tre di quegli apparati, già ti viene bene, c'è la voglia. Il 2009 sto usando, il microfono salenta. Sì, la radio è buona. Vabbè, quello sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non trovate lo Smith. Segnati dove c'è il potenziometro, con un pennarello, come si chiama, di quelli, adesso mi ricordo il nome, ancora a me, segnati in pratica il punto originale e poi prendi e sposti, hai capito? E così non ti sbagli. Con quelli indelebili lì. Sono cacciaviti in plastica induttivi, sì che ce li ha accusato, ce li ha. Già lo so, infatti, tutto per quello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Quello era regolato su internet, quello. Prova il trimmer a 1 a 1, lo sposti appena appena, se vedi che quando parlo io aumenta, regoli, perché ci sono due outside, quello della trasmissione e quello della ricezione. Quindi c'è poco da sbagliare. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Magari adesso non lo vedi, ma se magari ti guardi piano piano di come si chiama, lo trovi subito. Segui i capelli dello Smitter, non ci vuole nulla a trovarlo a me, ma se segui i capelli dello Smitter dove c'è lo stampato ti trovi subito il trimmer, c'è poco da te lo trovi vicino. Lasciale così a fottitini, che vuole entrare avanti. Ho sentito un bippiri, chi è? Sparita. Ciupi ciupi ciupi ciupi ciupi ciupi. Bombolina, bomboletta. È morto 4-5 mesi fa, una cosa del genere, figurati. Morto da solo in casa a me. Dopo 3 giorni mi hanno trovato putrefatto. E gli aveva da solo. Io l'avevo visto una settimana prima, è venuto qua al bar. A quanto ce la faceva scendere da 500 a bersi il caffè. Dopodiché non l'ho più visto. Come l'ho visto io, che c'è buccio male davvero. Non so se tu l'ha morto, infatti. Quando sono andato a fare il vaccino me l'ha detto un tipo, dice, ma tu non sei l'amico di Mario Kiri? Ha detto sì. Guarda che moto, dice, 4 giorni fa mi ha detto. Cazzo, gli ho detto, ma davvero sì? Sì, sono davvero. Ho trovato giorni fa, l'ho trovato dopo 3 giorni. Cazzo, gli ho detto, a bel punto è arrivato. Io non lo trovo, sì. Se uno si comporta bene, gli amici ce li ha che gli danno la mano, tanto per dire. E se invece uno è di carattere e fatto a testa sua, rimane da solo e nessuno lo cerca più. E quindi fa quella fine, il discorso è quello, capito? E lui purtroppo gli è successo così e basta, mica la colpa la mia, colpa la sua, non andava d'accordo con nessuno, hai capito, quindi. No, non è sposato. E beh, si è sbagliato un documento per l'ASA, lo gioco. Se hanno aperto lì, come si chiama, a posto della patatella lo hanno dato e magari ci vogliono. Sei stato fortunato, magari che ci volevano più mezzi e stai lavorando per quello. Non al 100%, ma almeno al 20% stai lavorando. Il discorso è quello lì. Perché non ci vedo nessuno all'asta, sei fortunato. E quindi sei tranquillo, capito? Beh, sei finito sì. Se non c'è più l'appalto, ti attacchi al tram, ti attacchi. Non lo so. Ah beh, quello sì. Uiuia. Secondo me questo lo fa buio, ragazzi. Cosa vedi? Io già sono qua. A buia. C'è la operazione e basta, c'è. Non so dove sia. Di solito su dove ci sono gli spagnoli, la sera, dopo le 9:30. Arrivano fuori, arrivano. Solo sul nome, sì. Sì, canale non senti per niente, solo sul nome. Spagnoli, brasiliani, tutti lì. Prova un po', adesso sei dove dici. Sì, adesso già ti sento bene. Sei come ti sedevi a me. Regolando ti stai. Io sono liscio. Quindi ci batte sui normali e l'ideale ce l'ho giù da Giovanna insieme all'altro baracchino mio. bene, figurati tu, non so, sono liscio, liscio proprio a me, lavo di liscio. Oh, mamma l'ha fatto per quel paracchino lì. Anche se minerale ce l'ho sopra, quello grosso. Devo sistemarmelo, devo avere la pazienza adesso di uno di questi giorni di farmelo. Però non ne ho voglia. Lo farò con calma in seguito. Devo cambiare anche il cavo, devo cambiare il foglio del 58, che è vecchio. Mettici il vecchio 213, in modo da, da non bruciare il lineare, se no brucio tutto. Lasciala così, non fare nulla. Ehi, è quello che sto usando adesso. No, l'ho fatta cosa, la carcassa delle... di quel baracchino, l'ho fatta Fabio Master. C'erano tutti i pezzi, c'erano tutti gli integrati, PLL, roba del genere, allora tutto quanto a lui avevo dato. Di pezzi di quel baracchino lì non mi è rimasto niente. Mi è rimasto 548 su 6, con la modifica 120 canali, anzi 200 per esattezza. E, altri 5-6 baracchini, ma non... tornato niente. E già ho capito già quello che sto dicendo. Devi avere la stessa sigla. Ci sono su internet me. Di quei baracchini che hanno dei problemi, li stanno vendendo. A volte ne vendono 6 addirittura oppure 5 tutti in un colpo. Adesso c'erano 4-5 Midland addirittura, sembra che valeva 120 euro, e cosa arriva? Non arriva in nulla, ma ce la faccio a riempire la casa di baracchini, non sono come quello di Las Vegas, no, che mi porta della roba e poi riesco a venderla. Ho stato a Las Vegas, guarda, qua a Sassari, allora sì che l'avevo venduta la roba, sei andato a prendere la roba all'asta e me la sarei venduta, come fanno in America, ma qui è totalmente diversa la cosa. Se vai a prendere la roba all'asta ti rischi il cazzo di tenere in garage per anni e qui soldi non li ha nessuno, invece lì a Las Vegas e cose del genere, in America te la pagano bene, capito? Ma davvero, te è pronta, è sistemata, modificata, quindi a dire il prezzo è questo. Lo so, a volte capita così. Lascia vedere. Frequenza libera. C'è di giù, cazzo, la pedaliera, ragazzi, è tutto pieno, cazzo di questi. Alleluia. E passa quando voglia. Così ci pigliamo un caffè. Capito? E così almeno ci divertiamo. Intanto già abbiamo roba qua. Portatevi, ne ho 7, ne ho, grazie adesso, 7 portate di ciò. Uia, telefoni cordless, faccio di questi giorni, faccio una bella, metto un po' di roba, tipo di quegli alimentatori miei, che vanno bene per qualsiasi cosa, di quelli modello vecchio. Mi metto dentro una busta, ci riscendo tutti in garage, ci riscendo e li volto vola. Prima che viene ce li porta via. Io quasi 200 di quegli alimentatori, da 4,5 volt, 9 volt, 12. Di quelli si usavano una volta, adesso si usano ormai quelli per telefonia cellulare, che l'hai visto, che sono fatti piccoli, switching, in pratica durano quanto durano, dopodiché vai te lo ricomparano a nuovo. Invece quelli modello vecchio, c'è il trasformatore, i ponti e rio, il transistor, il condensatore, io ho di quelli. E poi devo controllare la roba, c'è facendo in garage, qua non mica la posso tenere dentro la camera, che è diventato un togliaio qui, sembra laboratorio, sembra. Scendo tutto giù e poi si vedrà. Ma pezzi li hanno trovato io di quegli alimentatori che vanno bene per quei cordless, quello vecchio, vedi, quelli vanno benissimo, pompano quelli, non come quelli che stanno facendo adesso che vanno sul 900 MHz e cosa del genere, quelli che, quello vecchio che ho io, quelli funzionano benissimo, c'è una batteria, tre batterie da 1,5. Io ne ho due, ne ho di quelli, gli altri avevo tutti regalati, quelli digitali avevano fatto gli ultimi, da, io ti parlo di 4 anni fa, quelli erano belli, li avevo tutti regalati quelli, completi, alimentatore, portatile, eccetera, eccetera. Poi ci avevo regalato anche quei telefoni col video della team. No, c'ha della roba planeta, c'ha delle direttive, c'ha quanto so io, antenne per VHF, VHF, cavo, quanto so io, poi non lo so, è tutto da vedere. Bisogna che ti chiamo uno di questi giorni che tu sei a stanza e ti chiamo Antonio, poi parli con Antonio e mettete d'accordo, vai nel garage insieme a lui, quello che ti serve ti metti d'accordo con la padrona e te lo porti via. E allora sei a posto, quindi basta chiedere ciò che c'ha alla madre o alla figlia, quello che è, se non gli serve te lo porti, ti metti d'accordo e te lo porti via, non ci vuole, ce ne ha di roba mia ancora, quindi figurati. No, radio non è rimasto, mi sembra niente, quanto mi sembra, solo antenne magnetiche, mi sembra una cosa del genere, stili per VU, eccetera, eccetera, direttive, 2220 per VHF, ci è rimasto un po' di roba ancora, cavi, eccetera, eccetera. Ecco. Meglio così, avanti che volete. Sì, ciao, buonasera, ciao Gianni e ciao Antonello, c'è qualcun altro? Penso di no, non c'è nessun altro. Ciao Gianni, forse non mi ha sentito, ben sentito. È il solito che uso io, la 94. Scusate un attimino di bianco, scusa. Già lo so, quello aggiornamento che stai facendo tu lo sta facendo un sacco di gente. Ho visto gli animatori, stanno smontando i calici, stanno smontando e stanno vendendo tutto. Per quel motivo lì, capito? Perché è arrivato a una certa età, dice come cazzo si sa cosa fa il calice, smontarmi l'antenna, la direttiva. Allora... sono rientrato comunque. Vendo e capito. E così, su Facebook le ho viste parecchie. Ma secondo te adesso è pieno. Sono rientrato. Via. Siamo c'è il sole, va e si fa installare tutto. Hai capito? Ma non è così facile, no? Arrivato alla certa età, finché c'hai 20 anni, arrivi a 60, quei lavori riesci ancora a farli. Quando cominci a 65-70, come ti vai a installare antenne del genere e anche toglierle? È un casino, capito? Muoio lì e basta. Poi ci vuole gente per poterle farle scendere, a parte il palo che vuole alto, eccetera, eccetera. Non è così facile, io ho lasciato il palo basso, non me la sento più io lì. Una volta che installavo i pali 8 metri, 9 metri, non ne fregava niente. Perché ci lavoravo tranquillo e andava anche bene. Adesso che ho questa età qui, come cazzo fai? Se sei da solo, a scendere un palo d'acqua con la mantova sopra, già pesa 3 kg la mantova, più il tubo dell'acqua. Secondo come sbagli, se si va lo io, insieme l'antenna giù, direttamente dentro al bacio scendono, non saranno. È un pericolo, hai capito? Poi con questa questione di questi cicloni adesso, da stare molto, molto, ma molto attenti bisogna stare. Non è il tempo di una volta, no? Oramai la gente ha paura a installare antenne alte, le lascia basse, massimo 2-3 metri, non di più, e dorme tranquillo la notte. Non è che prendi, installi un traliccio, la butti e lo trovi novagnati da terra, cazzo, tocca pagare pure i danni. Sono rientrato già. Avanti, ma vabbè. Cosa, Antonio? Avanti, vabbè. Io sono rientrato, però da stamattina sono andato in zona di Cagliari da questo tipo che mi doveva dare la roba. Ho preso l'antenna, quelle sono quelle antenne a quattro dipoli attaccati verticali, sono quattro siti verticali per il radiogonio, ma sono le antenne navali che costano una barca di soldi. Mi sono fatto gli occhi, questo è un appassionato di SWL, tu vedi cosa c'ha questo qua di roba, ma roba professionale di navale, di tutto di più, cari. Riceve tutto il mondo, tutti i modi. C'era, infatti ne ha una coppia, lui c'ha quello per ricevere il satellite, le informazioni, quello in Marsat, tutto il ricevitore con la trattoria attaccata al computer. E ne ha un altro, però gli manca una parte per farlo vedere. Poi cacchio, c'ha decine e decine di apparecchiature professionali navali, questo è fissato. Vive in campagna, c'ha un traliccio di una decina di metri, tutto indipendente. Lui sembra quello scienziato spappato di Ritorno al Futuro, è pieno di apparecchiature, ma apparecchiature che costano migliaia e migliaia di euro. Non ha corrente elettrica, nel senso lui utilizza la corrente, cioè i pannelli solari, con tutto l'impianto di tutto questa roba qua funziona tutto a 12 volt o con l'inverter. Tutto quello che c'è funziona, cioè lui vive in questa campagna, in questo terreno, e non ha energia elettrica, la utilizza, ce la produce lui l'energia elettrica. Lui cosa c'ha di apparecchiature, cose da paura? Beh, ognuno ha la sua passione. È come quello che prende, come si faceva una volta la Maddalena, anzi come l'ha fatto una volta la Maddalena, poveraccio, si è pensato il radar di una nave in casa sua, eccetera eccetera, le apparecchiature, ma poche roba, poi è successo che si era bisticciato con un CB lì della Maddalena, quindi a questo gli ha fatto l'esposto e gli ha mandato l'esposto, e quelli delle poste non sapevano come fare e neanche come dirgli, in realtà dice, guardi, dice, io non so come dirgli, dice, dobbiamo portargli tutto via perché lei è d'arresto, gli ha detto, dice, è meglio che ne stacchi tutto veloce, perché se no la restiamo. E aveva tutto l'apparecchiatura militare e anche ricevitore, tutta roba americana va via. Evidentemente forse lavorava lì, come si chiama, no? Cosa ammiragliato, cosa cazzo ne so, della Maddalena. L'avevo incappettato forte, io ti parlo di tanti anni fa. Sì, ma tu perché è tutta roba professionale, però per uso marino e altre cose, tutto, probabilmente lui dice che era imbarcato questo qua, ma mi ha impressionato, c'è anche il radar, cioè tu stai dicendo, scherzando, c'è anche il radar, mi ha detto se interessa a me, ma ha detto non mi interessa, delle armadi di apparecchiature, però armadi nel senso rack, come per dire, professionali, broadcasting, c'ha una cosa, mi ha fatto vedere, se questa cosa cavolo, no, questo è un impianto di trasmissione per la cosa. Per le scialuppe di salvataggio, quelli che sono russi, sono degli affari in ferro grandi, metallo, arancioni sono, che c'è un'antenna, la butti in terra con le navi oceaniche quando affondano, e c'hanno queste apparecchiature qua dentro le scialuppe di salvataggio. Poi mi ha fatto vedere di questi in banda laterale, ce ne aveva uno della ICOM, un paio ne aveva della ICOM, però ICOM professionali navali, le HF navali da 250 watt, ma tu vedi queste apparecchiature allucinante. Poi i telefoni di bordo, quelli che chiama il comandante, che chiama per trasmettere satellitari, cose, sono rimasto a bocca aperta, e anche altre cose. Qui mi ha regalato un'antenna, e ne ha diverse di antenne, sia per le U che per le V, ma tutta roba professionale in acciaio particolare, questa è la camera di vedere, allucinante. Mi ha dato una Cartrain che si può tarare, è tipo una frusta con una molla che va da 110 a 300 MHz va questa antenna, la puoi modificare come vuoi, ma è una cosa allucinante. Mi ha detto, vai a provare cosa costa quell'antenna, me l'ha regalata. Vedi quella della Caval Matos, e quelle antenne lì, che si usano dove fanno la guerra, che sono quelle antenne con quel mollone dietro, già lo so. Io ho capito quale stai parlando, c'era una lì alla qua di fronte, anzi vicino a casa tua proprio, c'era una, se ti ricordi, appesa, poi sparita. No, non è proprio quel mollone grande grande, è tipo le vecchie antenne che usavano la pulizia, cioè presente quei molloni cromati, non è grande grande come quelle che stai dicendo tu militari, però è sempre roba militare, professionale, ma tu devi vedere quelle antenne per le U e per le V, allucinanti, quelle che c'ha queste direttive, ma da metterti le mani in testa, ma come costruzione allucinante, antenne navali, per le stazioni base navali, non alluminio che usiamo noi. Adesso tu vedi questa antenna che mi ha dato della, non so, Taio si chiama, Taio giapponese, tu devi vedere come solo la costruzione, tutto è in acciaio inox, tutte le vitrerie, e c'è un sistema di comando, siccome voleva attaccata a un radiogoniometro, c'è un sistema elettronico all'interno che analizza tutto su 360 gradi, è come che abbia un'antenna rotante, però è fissa, e questi dipoli girano intorno, c'è un amplificatore all'interno che li utilizza a croce, sono quattro dipoli intorno, orientati a 45 gradi, quanti a 90 gradi ognuno irradiano. E lui con questo sistema elettronico che c'è dentro ti dice la posizione dove sta arrivando il segnale, ma è una cosa allucinante. Poi mi ha fatto vedere altre apparecchiature da paura. C'è un bel tralice, infatti mi ha detto, guarda, se ti interessa un tralice, infatti tienilo a parte, che già mi serve, di 8 metri, quelli, il suo è rettangolare, quello che ci puoi salire sopra, e in due pezzi da 4 metri, questo qua è triangolare, tutto in acciaio stringato, eccetera. Ha detto, guarda che c'è un amico, te lo porto anche a Sassari, a un prezzo stracciato. Ha detto, sì sì, mettilo da parte che mi interessa. Vai Gianni. Che ti piace, io voglio avere la luce sopra, ancorato. No, ma adesso dove metterlo io il traliccio? C'ho un modo di metterlo, già c'è il terrazzo, bisogna fare una bella base in cemento armato, no? Non devi fare una gaggata, fare una cosa ben fatta. Gianni non ci sei più. Io dico, Gianni si sarebbe sciolto di riavere questa. Ma poi quello che ti colpisce è un tipo particolare, sembrava tipo quegli scienziati pazzi del film, ti ricordi? Ritorno al futuro, quello scienziato. Già ho capito, già. Un tipo che ti dà anche, ti fa anche impressione per come vedi quello che c'ha dentro, cazzo, una cosa buviosa, che cosa è di questa cosa? Dentro una specie di container c'aveva tutta questa roba dentro, tutta la lampada uno sopra l'altro, non era molto ordinata, però tu cosa c'aveva di lì dentro? Io sono rimasto senza parole, perché cacchio è questa cosa? Tu mi hai detto, guarda, ti compro il container intero, me lo porti a Sassari, dimmi quanto vuoi e poi te me lancio io. Ma non parliamo cosa c'ha di antenne questo qua, c'ha questo traliccio con pieno di antenne di tutte le posizioni, direttive, verticali, ma no, non giocattoli, cioè non le direttive che si utilizzano normalmente radioamatori, proprio super professionale, cioè antenne che è indistruttibile per uso navale e cose del genere. Poi di quelle antenne che usano, come si chiama? Mio papà dice questa la usano i vigili del fuoco, di quelle che sono tipo piene in vetro resina bianche, lunghe 3 metri, non so se le mie viste, molte volte ci sono sulle navi, che sono dritte dritte, c'è un tubo in plastica grosso e bianche, non so se le mie viste. Sì, già le ho viste, non ti preoccupare. È tutta roba di marca, no Mondetta, è tutta roba Cartreni, c'è questo ricevitore, due ricevitori navali, ne aveva uno di quelli nella Racal, di San Repentito Clarato, dice, perché era troppo grande, infatti lo conosco, ho detto cacchio, era venduto anche poco, di quelli che usavano le ambasciate quando dovevano intercettare, questa era della, come si chiama, della Germania Est, quando c'era il discorso delle spie che spiavano, dice quello ti ascoltava a tutte le frequenze, ma passava un soffio, una qualunque cosa, tirava fuori tutto. L'ho visto su internet, ma è una bestia di apparecchiatura quella lì, tutti i muti di emissione, diceva. E lo dice, l'ho dato perché era troppo grande, qua occupava troppo spazio. Vai Gianni, vediamo se rientra. Guarda, se capita ben volentieri, è una sfacchinata, ti ripeto, ho fatto oggi 535 km perché è lontano, non è proprio a Cagliari, è un po' prima di Cagliari, però da un'altra parte. Però io sono andato a Radio Telescopio, non so se siete andati vicino a San Basilio, quel Radio Telescopio da paura di 64 metri di diametro, è una cosa da fantascienza, se lo vedete, mamma mia. Radio 5 il segnale è leggermente superiore a 9. Allora io a questo gli ho comprato tempo fa il radiogoniometro della Simra, che costava all'epoca milioni e milioni, e ci voleva l'antenna. Lui mi ha dato l'antenna di un altro radiogoniometro per un'altra banda di frequenza, però siccome mi devono dare un convertitore di frequenza, ci posso adattare con l'antenna lì. E c'ha un sacco di roba questa antenna, me l'ha venduta a un prezzo ridicolo, che prendete, costava all'epoca 4.900.000 lire, e me l'ha data a un prezzo simbolico. E più mi ha regalato un'altra antenna veicolare per apparati professionali veicolari, però di roba professionale stiamo parlando. E c'ha un sacco di roba, antenne di decine e decine di antenne, e soprattutto per le V e le U, cioè direttive e più, ma stiamo parlando di roba professionale, non antenne normali amatoriali, non stiamo parlando di quelle tipo discorso di Mantova, stiamo parlando di antenne per uso professionale, dove uso gravoso, dai, uso militare, uso marino, bellissime cose. E poi mi ha detto portatelo via questo alimentatore di nave a fare 25 volt, fare 25 ampere, no 25, forse 50 ampere, pesa da 40 kg con un manopolone e mezzo, una cosa enorme, sarà stato 60 cm di larghezza, 30 di altezza, prenditelo a prezzo simbolico, no, cosa me ne faccio, è una cosa troppo grande, è un marrasone. Io sono andato più che altro per prendere quel sistema ricezione dei bollettini meteo in Massat, però mi ha detto sì, sono lui, è qua, però manca una parte che è mezzo rotta, dovrei buscartela. Lui ce l'ha funzionante, è bello, mi ha fatto anche la stampa attaccata al computer, però ha detto no, così non ti funziona. Della Sailor, una ditta danese che costruisce roba professionale per navi oceaniche. Ti spieghi quelli che si vanno a cucinare la cena a Simona, ti arrivo subito. Non ho capito Antonio, cosa hai detto? 10 minuti di quelli che si vanno a cucinare la cena a Simona, arrivo subito. Eia, ok, dai, vai Gianni, riprendi. Ma Paolo è andato a preparare la cena. Non ho capito, uno sfilotto da tavolo? Sì, sì, certo, confermo. Io ne ho due della SBE, adesso uno era da sistemare perché era fatto a jack proprio così e l'avevano modificato, e l'altro mi sembra che sia a 4 pin, non me lo ricordo, mi dovrei guardare, quando guardo te lo dico. Sì, io te lo do, non ci mancherebbe già, non ti preoccupare, lo devo cercare perché li ho tutti messi da parte in un armadio, devo guardare com'è fatto e te lo mando. Non ho capito cosa hai detto, rimetti il cambio e scambiamo la radio. Ehi, sì, sì, infatti ti volevo chiedere come mai non c'era Claudio. Ma stai uscendo liscio tu, Gianni? Sì, sono qua, non ti preoccupare. Vediamo nel frattempo se c'è qualcuno che vuole entrare. Che è avanti che vuole entrare? Tu sei Antone? Antone? Stavo provando le portate pacifiche della Midland, il marino. Questo è il segnale politico del mare, 156.425, o dove lo stai ascoltando? Canale 68. Sì, lo sai che c'è anche in HF questo segnale, lo danno anche in HF. Ma in realtà no, non ci ho mai fatto caso. Siccome ce li ho, mi erano regalati queste portate, sono nuovi rubri, quelli rami di Pacific. E non ho quasi mai usato un paio di volte e basta. Sono nuovi rubri. Adesso le ho messo le batterie nuove, stasera. Sono perfetti, cazzo, una bomba, sono, cazzo. C'è un siluro, cazzo, sono sì. 5, local, increasing, south, weather, rain, good. Visibility, increasing, moderate. Sea, allucinante, wet. Cacca, Antonio, c'è questo rumore di fondo proprio allucinante, fortissimo. È l'alimentatore, io lo so. Io lo so che l'alimentatore. Insomma, mi ha tirato, ce l'ho detto dentro uno scatolone. Io vedrei che ha finito di rompere le balle quell'alimentatore. Così me lo è a posto. Ma possibile, con tutta la cosa che hai girato e maneggiato, non si è riuscito a trovare un alimentatore tranquillo di quello trasformatore senza vento? Ce l'ho, ce l'ho. Devo solo cambiare i punti di riodi. L'ho piazzato, devo solamente mettere la vite più lunga, perché con i punti di riodi che avevo prima, c'avevo la vite più corta con bulloncino, hai capito? Adesso devo mettere la vite più lunga e poi a posto. E c'è un alimentatore di 20 anni fa, da 30 ampere, figurati, da quando avevo comprato il C80. E infatti, cavaniere, è un peccato, si rovina la modulazione. Ma io, grazie a Dio, alimentatore, ne ho uno definitivo più un altro. Quello della CEP, numero uno, non c'è per nessuno. Dimmi già, sei salito di segnale, ma ti sei aumentato qualcosa. Non parlare, manda solo portante un attimo. Ma qua c'è qualche ventola attaccata. Allora, la radio è abbastanza chiara, non è eccellente, è sufficientemente chiara. Ti dà un po' un leggero effetto camera, sento, diciamo... Non è eccellente, dai, ti ripeto, poi è chiara, già si ascolta. Però, ripeto, ce l'ho sicuramente, però non sono sicuro se sia stato manomesso, perché di lì avevano fatto la stessa operazione di cose. Infatti ti ricordo te l'avevo chiesto a te se ce ne avevi uno non manomesso tanti anni fa. Poi ne ho un altro di DSB, adesso non vorrei dire fesserie, però quello lì è l'attacco a quattro puli. Vabbè, non c'è problema, se ce l'ho è come che ce l'hai tu, non ti preoccupare. Mettiamo solo d'accordo per fartelo vedere. Dimmi una cosa, Claudio, sì, non c'è bene, ci mancherebbe, un po' stanco perché ho fatto così stamattina, se interessa qualcuno ha appena segnato Calabria in questo momento, dopo 35 secondi, cosa volevo dire? La radio, fammi sentire a tuo babbo con l'MB+4, con questa radio qua, perché ti dà un effetto leggermente riverbero, un effetto camera ti dà. No, come livello già va bene, non sto dicendo quello lì, lo sento leggermente, quando stai parlando dentro un tubo, cioè per esempio un tubo metallico, ti dà un effetto soffio tipo una camera, che sei in una camera vuota, allora, non prenderla come una critica, è solo un commento di cosa, un'osservazione, poi ti ripeto, ce n'è molto, ma molto peggio di radio, però se magari riesci a trovare una soluzione un pochettino, magari retoccando la bobinetta, non la bobina, scusa, la capsula microfonica, che magari devi controllare, molte volte si girano un pochettino e ti dà quell'effetto di tipo quando sei in bagno che stai parlando col telefono di cellulare, che ti fa un effetto di riflessione, che magari basta metterci un po' di ovattina dell'ovatta all'interno in modo che ti attenui questa, sembra che stai rimbalzando la voce dentro una parte metallica che sembri dentro un tubo, però ripeto, è comprensibilissima, niente da dire. Antonio, sì, forse si allontana. L'altro giorno così lì, non il console, che cos'era quello che ho utilizzato l'altro giorno con la mia MB+4, ricordami. Nero col tasto in alluminio, lucido, così. Ecco quello mio, ne dovrei avere due, dico il microfono, ho detto a tuo padre. Uno era cablato a jack, però quello cablato a jack non sono sicuro se hanno fatto delle modifiche. E mi sembra pure che tra l'altro li avevo anche già apprezzato al suo padre, vabbè, comunque glielo do come in ogni caso, se lo guarda lui. E poi dovrei avere uno con l'attacco a quattro puli, siccome ne ho decine di microfoni, adesso non mi ricordo esattamente quello lì. E assolutamente, no, non ti preoccupare, l'unico dubbio è che non sia stato manomesso anche il mio, è per quello che ti sto dicendo, magari te lo do e poi fai quello ricco piccolo lì e poi magari non funziona, perché chi l'aveva messo a mano l'aveva modificato, non vuole dare una cosa e poi magari non serve, comunque lo vedete, lo fate tutto quello che dovete fare. Vabbè, ma col cellulare lo sai cos'è il problema? Che cioè non è il, non è esattamente quello che sto ascoltando, ti dà, ti cambia un po' le tonalità, magari poi c'è un cellulare che ti esalta un po' gli acuti, l'altro ti dà un po' di bassi, io te lo posso mandare, però non è la stessa cosa, siccome io conosco la tua voce naturale, per quello te lo sto dicendo, conosco altre situazioni di trasmissione tue e noto delle differenze, in questo caso sembra una voce intubata, leggermente come lo stai parlando in un tubo metallico, non un tubo di plastica, proprio che sarà, ti dà un leggero effetto ritardo, dai, diciamo, di modulazione. Certo, no, poi ho sentito le registrazioni che mi hai mandato tu e ti posso dire, di quelle due, la radio più recente che pensavo fosse peggio, c'ha una bella modulazione, era molto naturale come voce, me le mandate tutti e due, detto, a me mi piace più questa, e infatti come gusti ti posso dire, avevi ragione, sono tutte e due chiare, quelle tutte e due in banda laterale, però una delle due secondo me è più naturale. No, ma era pulita, non era una radio sporchina, perché poi è entrata un'altra persona che non facciamo nome, però era un po' sporca la modulazione, non era naturale, sembrava quando c'è una cosa equalizzata male, mentre non per vantare quella mia, ti posso dire era piacevole come pulizia di modulazione, sono apparati seri, tutti e due, quell'altro che mi ha detto più bassa era leggermente più naturale secondo me. Certo, assolutamente, normalmente le capsule sono come una toccante, quando rimangono troppo ferme perdono di elasticità, devono vibrare, in parole povere, a seconda della frequenza, e si muovono. Naturalmente se le tiene troppo tempo ferme tendono a incollarsi, a irrigidirsi, per cui le frequenze più basse magari non riescono a vibrare nelle basse frequenze, vibrano soltanto nelle alte frequenze, ti dà un effetto tagliato, ti taglia delle tonalità, però ti ripeto, la modulazione è chiara, non è eccellente ma sufficientemente chiara, non posso dire niente. E poi naturalmente è da verificare tutto il discorso dell'impedenza, tu stai parlando di un microfono della stessa marca, normalmente con la stessa marca l'impedenza è l'ideale per lo stesso apparecchio, però non è detto, magari se qualcuno ha cambiato qualche componente o c'è qualche componente empirica, magari ci avrai qualche valore diverso da quello da casa, diciamo da manuale, può darti anche qualche imperfezione di modulazione. Avanti di nuovo. No, è la cosa più bella avere la radio, anche come questione di valore, la radio col suo microfono originale è sempre meglio, è assolutamente consigliabile. Sì, assolutamente, non penso che ci sia niente di complicato, una volta che l'hai fatta funzionare basta fare piccoli ritocchi, assolutamente, io sono sicuro se tu li metti dell'ovatta cambia dal giorno alla notte quella radio. Sì, diciamo, è preferibile avere, così non stai a perdere tempo a dire c'entra, ti sposta, ti sali, lo fai direttamente col frequenzimetro e sei sicuro di essere centrato, e tra l'altro potresti dare anche dei controlli a chi magari c'ha qualche problema, dice no, guarda, questo è un frequenzimetro e mi sta dando la frequenza giusta, con un scarto minimo di errore, eccetera, eccetera. Ok, lasciamo un attimino il bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare nel frattempo, avanti, se no riprendi tu. Right. E su internet molte volte trovi cose impensabili, poi cose che sei sicuro di trovare, per dire, di un apparecchio che ho io adesso, sicurissimo di trovare tutto, invece è nulla, non trovi niente, ci sono fotografie da lontano, di schemi che vai a ingrandire e non capisci niente, solo devi andare in quelli cosa a pagamento, ti devi registrare, e magari un'immagine che non vale niente, te la fa pagare $10, $15, infatti lasciamo perdere, preferisco trovare qualcuno che ce l'ha, dimmi una cosa, stai uscendo liscio tu? No, era soltanto per farti complimenti, sta arrivando su per i 9 più 10 e sei pulito, assolutamente un ottimo segnale. Dice no, già va bene, non ti preoccupare, ok, vediamo se è rientrato Antonello, avanti chi vuole entrare, o Antonello rientra. Comunque è la zona di Cagliari, tu devi vedere cosa ci sono di antenne di lì, di CB, c'era un'antenna di questo tipo, una mantova, ci ha avuto 12 metri di calo, una cosa esagerata. No, mi ha detto che non ce n'è, lui ascolta altre cose, su altre bande, eccetera, eccetera. Bande marine, così si diventa, soprattutto bande marine, mi ha detto che non c'è nessuno, proprio zero assoluto, qualche camionista vedi, però mi ha colpito, c'era una volta, c'erano delle antenne cubiche, antenne grosse, di dimensioni enormi, ma lui ascolta molto la roba marina, lui era imbarcato, uno probabilmente roba militare, qualche nave militare, questo tipo, e ascolta molto e comunica con queste persone qua. Sì, sì, no, ma ci ammirò molto, da molti anni che non salivo a Cari, cioè forse 2 o 3 anni fa sono passato, ma adesso stasera invece ho fatto proprio un giro bello, ho girato per la città e ti posso dire c'è un bel movimento. Al mare ti mettevi le mani in testa, cosa c'è al poeta oggi, era una cosa mai vista, sembravi a Rimini in pieno estate. Poi hanno fatto una bella passeggiata, hanno fatto zona traffico pedonale, una bella passeggiata lunghissima, sarà 1,5 chilometri, non so, veramente bello, servita bene, ordinata, eccetera eccetera, molto invidiabile questa cosa, non me lo immaginavo. No, no, non mi interessa, ci mancherebbe. Ma Nicola, lui di dove è? Di Villazzolo? Ah, io pensavo che fosse coso, sardo, e lavorasse così, trasvertista, dai. Ok, come non detto allora. Scusa, scusa, Claudio, dammi 2 secondi di bianco, devo rispondere a una cosa. Ci sei? E l'altro collegato, quello che stavo utilizzando ieri o avanti ieri? Altro baracchino. Ma scusa, ma non ne avevi anche un altro tu? Ma scusa un attimino, quello che usavi con l'MB più 4, che cosa era? Ah, infatti mi ricordavo bene, ce n'era uno con l'MB più 4. E quello lì non lo puoi utilizzare? E che voglio fare un confronto di radio soprattutto e di segnale. Lascialo liscio tutti e due. E io sono qua. Avanti che vuole entrare su 10? Ma tu sei Claudio? Infatti ho messo lo switch, ho detto, ma vedo che sto segnale che sta salendo, forse era troppo aperto lo switch. Prova a parlare, sicuramente deve scaldare, è meglio dell'altra, anche qua leggeva un effetto scamera, si sente, ma probabilmente deve stabilizzarsi termicamente. No, la modulazione è molto migliore di Santiago, da 9,5 che sei adesso rispetto ai 9,10 che eri prima, e c'è 5 punti. Sì, sta migliorando anche, tra l'altro questa anche spinge di più come radio, e c'è leggermente qualche dB di intensità microfonica rispetto all'altra. No, allora probabilmente l'altra tirava fuori qualche watt in più, perché questa è 9 più 5, l'altra è 9 più 10. No, parlavo di dB di intensità microfonica, non di segnale. Avevi circa dB più alto di radio, di potenza di radio parliamo, con questa. Però di segnale questa perde 5 punti, da 9,10 dell'altra questa è 9 più 5, magari scaldando, per cui sono sicuro che l'altra magari c'ha qualche watt di più di questa. No, questa non so, perché deve avere le cose vanno verificate cercando di trovare i giusti adattamenti microfonici. Questa con questo microfono sta andando alla grande, l'altra è da migliorare, però anche l'altra si ascolta, non ci sono problemi rispetto a molte altre radio che ci sono qua in 27, e c'è una buona radio, ripeto, ce ne sono di meglio, ma ce ne sono molto ma molto peggio. Sì, ma ho notato una cosa che non ha cambiato molto, perché io prima ero ieri o avanti ieri, non mi ricordo, quando abbiamo fatto le prove, era un passaggio in AM e poi ho fatto il passaggio in SSB e USB in quel caso, non c'era grande differenza, non ho fatto, confermi? Allora, questa è la distanza mia solito di modulazione, stiamo parlando più o meno 50 cm, il canale che stiamo trasmettendo è il canale 10, la frequenza è il 27.075, questa è la frequenza utilizzata normalmente, il canale 10, vediamo un po' come mi ascolti, se sei riuscito a fare una registrazione, avanti a te. Poi c'è le possibilità, così che anche tu quando ti chiedono i rapporti, non dico di sentire, di segnale, i rapporti di radio, di modulazione, se ti metti un altoparlante magari anche discreto, così c'è il modo di ascoltare con più precisione, dai, come sto facendo io adesso in questo momento, perché è inutile molte volte ascoltare con la RAN 48, l'altoparlante da 3 cm, c'è un tipo di ascolto fittizio, diciamo, non ha credibilità quell'ascolto lì, per cui se c'è modo anche di quelle cassette dei computer, quelle varie che sono un po' più, non le solite plastichine, quelle un pochettino un po' di qualità, la colleghi alla radio, c'è modo anche di avere possibilità di avere un ascolto più fedele, diciamo, della realtà, quindi se fai delle registrazioni sono un pochettino più credibili. Di nuovo a te Claudio. Sì, non c'è problema, probabilmente se dalle zone di Napoli, lì c'erano gli americani e riuscivano a avere le cose, l'alimentazione è sicuramente a 110, non è come la solita europea 220, conferme. E adesso forse c'era qualcuno che voleva entrare avanti, che voleva entrare, qualcuno con un segnale molto forte, 9 più 20 è arrivato qua, ha dato un colpo importante, va bene, dai, non c'è problema, vediamo, facciamo un'altra chiamata generale, se vuole entrare qualcuno, avanti sul 10, se no riprendi tu, vai tu Claudio. Sì, saluta a tutti in casa, mi raccomando, dai. Beh, grazie del corso, anche io adesso stacco, dai, mi guardo la partita, me la guardo, adesso ce l'ho sul cellulare, adesso me la metto sul TV, dai, grazie di tutto, saluta a tutti e anche neanche io faccio correttivi. Ciao ciao a tutti gli amici in ascolto.